e Dario il Medo ricevette il regno all'età di 62 anni. Piacque a Dario di porre alla direzione del regno 120 satrapi perché sovrintendessero a tutto il regno, e sopra di loro 3 alti funzionari, di cui uno era Daniele, ai quali quei satrapi dovevano rendere conto, sicché il re non fosse importunato. Ora, poiché il nostro Daniele eccelleva sopra gli alti funzionari e i satrapi, essendo in lui uno spirito superiore, il re decise di affidargli il governo di tutto il regno. Allora gli alti funzionari e i satrapi cercarono un motivo per accusare Daniele in rapporto al governo del regno, ma non riuscirono a trovare nessun motivo di accusa o di corruzione, perché egli era fedele e mai si poté trovare contro di lui accusa di colpa o di negligenza. Allora quelli dissero: «Non troveremo mai nessuna colpa contro questo Daniele, se non troveremo contro di lui qualcosa riguardo alla legge del suo Dio». Così quegli alti funzionari e i satrapi si precipitarono dal re e gli dissero: «O re Dario, vivi in eterno! Tutti gli alti funzionari del regno, i governatori e i satrapi, i consiglieri e i prefetti, hanno deliberato che il re ratifichi il decreto e confermi la proibizione che chiunque rivolga preghiere a un dio o a un uomo per la durata di 30 giorni fuori che a te, o re, venga gettato nella fossa dei leoni. Ora, o re, ratifica la proibizione e fanne redigere il documento, in modo che non possa essere cambiato, in conformità con la legge dei Medi e dei Persiani, che non può essere violata». In seguito a ciò, il re Dario fece redigere il documento con la proibizione. Daniele, appena ebbe conosciuto che era stato redatto il documento, andò a casa. Le finestre della sua camera alta erano poste in direzione di Gerusalemme e 3 volte al giorno si inginocchiava, pregava e lodava il suo Dio, come era solito fare anche prima di allora. Allora quegli uomini si affrettarono e trovarono Daniele che pregava e supplicava il suo Dio. Così andarono a dire al re riguardo alla proibizione reale: «Non hai fatto promulgare la proibizione che chiunque pregasse un Dio o un uomo per la durata di 30 giorni all'infuori di te, o re, sarebbe gettato nella fossa dei leoni?» Il re rispose e disse: «Così sta la cosa, secondo la legge dei Medi e dei Persiani, che non può essere violata». Allora replicarono al re: «Daniele, che è dei deportati di Giuda, non si è preoccupato di te, o re, né della proibizione che tu hai fatto mettere per iscritto, e 3 volte al giorno fa la sua preghiera». Allora il re, quando ebbe udito ciò, si addolorò molto, si dette premura di salvare Daniele e, fino al tramonto del sole, cercò di liberarlo. Ma quegli uomini si precipitarono dal re e gli dissero: «Sappi, o re, che è legge dei Medi e dei Persiani che nessuna proibizione o decreto che il re ha sanzionato può essere cambiato». Allora, dietro ordine del re, portarono via Daniele e lo gettarono nella fossa dei leoni. Ma il re si rivolse così a Daniele: «Il tuo Dio, che tu servi con tanta costanza, possa salvarti». Fu portata una pietra e fu messa sopra la bocca della fossa, e il re la sigillò con il suo anello e con l'anello dei suoi dignitari, perché niente venisse mutato riguardo a Daniele. Allora il re se ne tornò nel suo palazzo, passò la notte a digiuno, non fece venire le concubine alla sua presenza, e il sonno fuggì da lui. Verso l'alba, sul far del giorno, il re, alzatosi, si recò in gran fretta alla fossa dei leoni, e quando si fu avvicinato alla fossa, chiamò Daniele con voce angosciata. Il re si rivolse a Daniele: «Daniele, servo del Dio vivo, il tuo Dio, che tu servi con tanta costanza, è riuscito a salvarti dai leoni». Allora Daniele parlò con il re: «O re, vivi in eterno. Il mio Dio ha mandato il suo angelo, che ha chiuso la bocca dei leoni, i quali non mi hanno sbranato, perché davanti a lui sono stato trovato innocente. Ma anche davanti a te, o re, non ho fatto nulla di male. Allora il re si rallegrò molto e dette ordine di tirar fuori Daniele dalla fossa. Daniele fu estratto dalla fossa e non si trovò nessuna lesione su di lui, perché aveva avuto fede nel suo Dio. Il re poi dette ordine che fossero fatti venire quegli uomini che avevano calunniato Daniele e che fossero gettati nella fossa dei leoni, loro, i loro figli e le loro mogli. Non erano ancora arrivati al fondo della fossa che i leoni furono loro addosso e stritolarono tutte le loro ossa. Poi il re Dario scrisse a tutti i popoli, nazioni e lingue che dimorano sopra tutta la terra: «La vostra pace sia grande. Da me viene decretato che in tutto il dominio del mio regno si tremi e si stia in timore davanti al Dio di Daniele. Egli è il Dio vivo e dura in eterno. Il suo regno non sarà mai distrutto e il suo dominio non avrà mai fine. Egli salva e libera, opera segni e prodigi nel cielo e sulla terra. È lui che ha salvato Daniele dal potere dei leoni». Questo Daniele ebbe successo nel regno di Dario e nel regno di Ciro il Persiano.